si spacca il governo sul test antidroga per i politici. Mentre Giovanardi, sottosegretario alla presidenza, offre addirittura i suoi locali per fare l'analisi al cappello dei parlamentari disponibili, Cicchito, capogruppo del PDL, dice che non ci sta, perché tutta questa storia è nata, come al solito, per colpire Berlusconi. Non per spaccare il cappello in quattro, ma in questo campo l'unico esame che si può fare al Premier è quello della palla da biliardo. Non è un cappello, ma un crine di cavallo uscito dal palto. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amore. La gelosia.